Senti, ma perché facciamo tutto questo? Per vincere la monotonia, non ti pare? Erce, provincia di Brindisi, città medioevale, comune d'Europa. Simbolo della città, Ercole, che spezza una colonna con la sola forza delle mani, una delle mitiche 12 fatiche. Dimostrazione di forza e perfezione dell'uomo, figlio degli dèi. Patrono del paese, Santa Lucia martire addolorata, protettrice della vista. Arrivi con la macchina e si staglia stupendamente, orizzontale, la meraviglia urbana. Alla tua destra il cartellone d'ingresso. Welcome. Willkommen. Benvenuto. Benvenido. Benvenuti ad Erchie, provincia di Brindisi, città medievale, comune. Arrivederci da Erchie, provincia di Brindisi, città medievale, comune d'Europa. Arrivederci. Ma come arrivederci? Ma si sono appena arrivati. È già finita la meraviglia ormai. Dai, sì, dai, diciamoci la verità. Erchie è un piccolo paese dell'entroterra salentino, piccolissimo. Uno sputo. Facciamo così, per capire la vitalità del luogo. Ore 19:30 nella piazza centrale. Appunto, solo il silenzio. Poi ogni tanto si sente qualcosa. Questo significa che non ci vedono, ma ci sono, ci sono. Infatti, il primo a vedersi, il primo ad apparire nel buio più assoluto, è lui, l'intrepido Jackie, il vigile senza timore, da non confondersi però con Poldino, il vigile col panino, e Cicillo, il conte vigilare. Può cortesemente risuovere la sua autovettura? Trattasi di luogo di sosta vietata, normale tra mezzi, altrimenti sono costretto ad andare incontro alle stazioni. Ho capito, bastava dire, sposta la macchina, e te la spostavo. Insomma, la sera di cui parliamo noi, venivano i miei amici a prendermi. Il primo che incontrarono nel buio più assoluto fu proprio lui, l'intrepido Cecchi, il vigile senza timore. Ma voi due avete scavalcato? Che cosa siete? Non San Mangrazio? Oh, mannuria! Siamo venuti a cercare un nostro amico, si chiama Oscar Desumma. Oscar? Di Zoom si abita in Viaggiotto. Viaggiotto accanto alla scuola elementare di fronte alla Guardia Medica, Cariciola. Così non ho capito che cosa. Cariciola. No, che proprio non ho capito. Tu stai cercando fiori, Cariciola, fare cosa? Fai in fondo sta strada, sta un semaforo, gira a sinistra, va in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo. A un certo punto ci sta una casa gialla, quella. Ma quello di cui parlava Jackie non era un semaforo, era il semaforo, messo lì il 12 settembre del 1990, a ore 10 del mattino, si accende il primo rosso della storia di Erchie, all'inaugurazione i tre vigili appostati. La voce dell'evento rocambolesca fa il giro del paese, Angelino Sclerotico proclama la sospensione temporanea dei lavori per causa di forza maggiore e si affaccia al suo negozio con tutti i suoi clienti. La rosina passatore sopra il balcone, sopra gli eventi terreni, con rosario in mano, a che tutto vada a buon fine, mentre il generale Minguzzo scorcia scorci, statuario sulla solita che sicuramente non andrà bene, che quando c'era Vittorio Emanuele dietro le tende fatte di canne e occhi scusanti a varie altezze che indicano che famiglie intere sono lì nascoste a seguire segretamente l'evento. Dietro le finestre della scuola elementare facce di bimbi spiaccicate, addirittura signori, il giorno prima le maestre avevano tenuto una lezione straordinaria sull'importanza delle regole e del rispetto dei codici. Ma attenzione, la prima autovettura ignara si avvicina alla trappola mortale. È rosso. I tre sono in stato di emergenza. Fischietto in bocca, blocchetto delle multe, viro. La macchina si avvicina, ma non dà chiari segni di rallentamento in atto. Jackie si intrinzisce. Poldino prende fiato per fischiare. Cicillo ha già scritto il primo numero da larga. La macchina arriva al semaforo. Scatta il verde e la macchina va. Il conducente è amorevole allo specchietto mentre i tre imprecano in lingua originale con sottotitoli in albanese. Ma attenzione! La seconda autovettura. Stessa situazione, vedetta, fischietto, blocchetto. La macchina improvvisamente rallenta. Poi suona. Arriva al semaforo, scatta il rosso. La macchina va senza fermarsi, operazione blocco e multa gelato, mentre il conducente amorevole al finestrino segna, poi passa mio padre, naghi de muerto, come segna, guarda che dica no, scusa, lupio di imbecille ora sono, ne faccio uno sberba e non ci spiace a chiori, insomma, gli unici che si fermarono davanti a quel semaforo in realtà furono i miei amici che venivano a prendermi. Poi, dopo una settimana, il semaforo fu spento. E lì aspetta ancora, nel centro del paese, nel centro di Erchie. Erchie è uno di quei paesi con i giorni fotocopia, tutti uguali, ma non nelle cose che succedono, nello stato d'animo. Erchie il tempo, per esempio, è un altro tempo. Tutto avviene con calma. Erchi, tutto è vago. Adesso guardiamo, poi vediamo. Ti saprò dire dove ci becchiamo? In giro, fuori di me, fuori di ore, vedo mia fine, andare le pezzo, non si può. Erchi è forte il profumo del mare. Che corre rode le cose, inumidisce le case e sussurra all'orecchio dei vecchi. Mettiti sull'orlo del mare e conta tutti i granelli dell'arena. Quando li avrai contati, saprai che sono niente in confronto agli anni dell'eternità. Gli anni di un uomo stanno stretti nel pugno di un bambino. Erti, le case sono tutte basse, bianche, senza tettoie. Le porte di Anticorotal, un trionfo di Anticorotal. E nei giardini, i calibri, cioè i fichi d'India. A Erchi la domenica mattina si va a messa, o comunque vicino alla chiesa. A Erchi, la domenica mattina vicino alla chiesa, si comprano lì simienti, i semi salati, e poi si sputacchia le bucce per tutta la mattina. A posto, wake up! Mentre si guarda eccitati le cosce delle donne del villaggio. Oh, che succede? Che se uno si fa un taglio di capelli particolare, dopo una settimana tutti hanno i capelli a quel modo. Ma non erano le classi sociali che facevano l'atmosfera del luogo, né la condizione economica o il tipo di lavoro. No, signore. A Erchie, provincia di Brindisi, città medioevale, comune d'Europa, benvenuto, arrivederci, c'erano i personaggi di una grande, grandissima storia. Per esempio, come non dire che era un personaggio, Nzè Tutilu Chiosco. Nzè Tutilu Chiosco, un barista tutto rosso, lentigginoso, di circa 60 anni, che faceva cose come, se tu mi fai un caffè per favore, lui te lo faceva, te lo metteva sul bancone, già zuccherato. Come già zuccherato? Quanti cucchiaini? Tu quanti ne volevi? Due. E io ho due, non ho messo, eh. Oppure faceva cose come, Zetto, mi fai un caffè per favore? Corretto, corretto, ma chi ti ha detto che te lo devo sbagliare? Zetto, mi fai tre caffè, due succhi di frutta, una birra, poi mi dai un caffè latte, e piano piano, e più avanti ci sta un bar. E da lui si incontravano i personaggi mitici della storia di Erchie. Angelino Sclerotico, Donato Lavatopo, Mimino Scultura Ambriaca, Cillupaccio, Papatori, Giovanni Parmisano, Antonio Sgura, Temperino, Naschetta, Giovanni Zuculoni, Emanuele Giunfulone, Franco Picchipacchi, Mimino Freffreto, Rignagnagna, Cucù, Franco Tartà, Pinuto Dulla, Nanna, Nassi, Sicco, Coe, Cacamolo, Cazzo. Ma guardiamo, proviamo a guardare da vicino uno di questi personaggi. Proviamo a guardare Angelino Sclerotico, autosoprannominatosi Sette Agnetti, Sette Anelli, magico soprannome da mafioso che avrebbe dovuto destare il timore reverenziale. Professione? Ah, Gini, che lavoro fai? Coifero Bramne. Che lavoro fai, Gini? Coifero Bramne. Gini, che barbieri! E tu entravi, c'era una stanza nella via principale, 3 metri per 4. Entravi, lo vedevi, capello corto avanti e lungo dietro, alla tedesca, occhiali Una bella ventrazza da quarantenne ammogliato, 30 anni scapolo, jeans, camicia di jeans e un bel gilettino underground post anni 70, tutto tasche, similpesca. E fumava, inesorabile, fumava. Angeli, ma già tagliare i capelli. Assettati. Osk, prepara l'acqua! Ha detto così, con nonchalance. Prepara l'acqua! Come se niente fosse. Prepara l'acqua! Come fosse la cosa più naturale del mondo. Prepara! In realtà lì cominciavano i miei problemi, perché in quella stanza di 3 metri per 4 di acqua corrente che veniva fuori dai rubinetti, non ce n'era! Per cui io dovevo correre dietro un separatore il più velocemente possibile per salire dell'acqua da una tanica ad un pentolino, metterla sul fornitore, aspettare che si riscaldasse, tenere tutto sotto controllo, mentre intanto Gino distraeva il cliente per non fargli capire che non c'era acqua corrente. Spicciato, domonnare. No, c'è qualcuno che non conosce il dialetto erciolano? Ragazzi, cioè, adesso siamo anche quasi in vacanza, no? Cioè, nel mondo si parla inglese e erciolano. Cioè, vabbè, traduco per quei due che non conoscono il dialetto erciolano. Mi chiedevo se in questa nuova florida stagione hai già ottemperato i lavori che ti attendevano, ovvero potare i tuoi meravigliosi alberi da frutto. E spicciato, demonnare, fore. Oppure, sono trattore nuovo. Ho notato il tuo ultimo acquisto, ovvero il trattore rosso fiammante, un dubbio amletico, però mi attanagliava fino al più profondo delle mie viscere, ma il carro con i cavalli è ancora una tua proprietà di utilità fondamentale per l'agricoltura mondiale in quest'epoca di globalizzazione. Poi faceva al cliente la domanda magica. Non è che hai la fofola o la cute sensibile, oppure mi stai perdendo i capelli. E quando il cliente aveva risposto la 1, la 2 o la 3, a tal guisa mi apostrofava: Osk, prendi lo shampoo per la cute sensibile, che era lo shampoo del contenitore rosso, che differiva da quello giallo per la folta, da quello blu per la caduta dei capelli, per un solo ed unico particolare: il contenitore. Perché lo shampoo all'interno era identico, comprato in taniche da 5 litri in forma concentrata, è sempre in offerta speciale. Ma voglio essere più preciso: lo chiamavano sclerotico, perché se lui era di buon umore, diciamo, quando uscì, i capelli erano decenti, ecco. Ma se si svegliava storto, ecco, io ho visto delle persone con dei buchi sulla testa uscire e salutare educatamente, buonasera angeli, e addirittura dopo un mese ritornare, perché chissà per quale magica alchimia gli affezionati tornavano puntuali tutti i mesi, nonostante la qualità del servizio. Allora, con 5.000 lire, ti facevi lo shampoo, i capelli, a volte anche la barba, ma soprattutto che avevo a disposizione tutto il catalogo degli ultimi 5 anni della pornografia italiana ed estera. Magari possiamo fare che quando faccio gli stop, li faccio un altro paio, facciamo il momento selfie, tutti insieme, posso venire da voi. Durante magari, però no, non è uno scattato. È arrivato qualcun altro? Aspettiamo. Se fate presto faccio di assurdo. Vabbè, vado avanti. Era una vita monotona, no? Avete riconosciuto il gesto? Giorni, fotocopie, tutti uguali. La mattina a lavorare da angelino sclerotico, e la sera ti ficcavi nel chiosco d'Anzetto e cercavi un modo per passare la serata. Oh, ed ogni modo era buono, eh. E si giocava, che ne so, a Scala 40, a Ramino, Assomiglia Tutto, Donna Checca, Rubo Mazzetto, qualsiasi cosa. Poi sparlavi di qualcuna che magari non l'aveva fatta vedere, oppure che l'aveva fatta vedere troppo. E poi il nostro divertimento preferito, avvinazzare Gregorio Cucunaro, il mito, la leggenda della viticoltura erculana. Gregorio Cucunaro, un tipo tozzo, pelato, con due basettoni anni 70, forse perché l'ultima volta che era stato lucido era proprio negli anni 70. Tu lo facevi bere e lui faceva per te le cose più incredibili. Faceva le capriole, saliva sugli alberi, inseguiva le vecchie, aveva toccato il culo al sindaco, sgonfiato le ruote dell'assessore all'agricoltura, aveva posato in moda più intimo donna. Un'altra volta era entrato in chiesa, aveva preso il microfono con gli altoparlanti esterni accesi, mangia dillo, soga dillo, sto limone, solo per un bicchiere di vino, bastava farlo bere. Gricò! Vivi, vieni, vieni, Gregò! Allora, sento, mi fa un bicchiere di vino per Gregò, dai, aspetta, aspetta, aspetta, prima di bere però, ci fai divertire un po', qualche cosa, eh? E così, signori, partiva la giostra. Buonasera signore, vado tardi, eh. Pagato meno. Con gruppo. Allora, intanto ci capo con le capio perché questo bicchiere di vino è mio, eh. Dico, che ci ho fatto, una capriola? Salgo su un albero, che dire? Signore, vuoi, ma baci i pantaloni? Ma voi due insieme state? Dico che a te ti è andata bene, a te ti è andata male. Anche perché mi hanno detto che voi siete di che non pagate il che saltate le staccia. Eravate venuti. Sembrava uno simpatico l'attore, poi invece. È uno che. No, perché allora io posso dire. Bere sempre, dico. Voi vi piace lo miero, dico, generalmente io. Ma mi capite quando vado? No! Vi piace lo miero, il vino, vi piace. Allora io posso dire. No, tu bevi per festeggiare perché ti è andata bene. Tu bevi per dimenticare. Tutte e due. Poi, alla fine della serata, lo show finiva. Salutavo gli amici. Angelino Sclerotico, Donato Lavatopo, Minuscoltura Ambriaca, Cido Paccio, Papadori, Gianni Ramitano, Antonio Sgura, Temperino, una schietta. Non si può minare la vita così! Per i pochi che non conoscono il dialetto erchelano, non si può buttare via una vita in questo modo. E quando seppi che al comune stavano cercando dei ragazzi per fare il censimento per la spazzatura, signori, io mi presentai ed ebbi il lavoro incredibile, ero felice. No, ero felice ma anche addolorato, perché come l'avrebbe presa Angelino, eh? Come un tradimento, un abbandono. E così mentre mi dirigevo al suo negozio, gioia e dolore mi avvolgeva. E ecco, quando entrai nel negozio, Angelino era lì che tagliava i capelli come al solito. Si voltò, mi guardò dritto negli occhi. Anch'io lo guardai, ero pallido in volto. Angelino, con la sua sensibilità, se ne accorse subito. Se non c'è cagato stamattina. Ma questa si è capita. Angelino, ascolta, sono andato al comune che stavano cercando ragazzi per fare il censimento per la spazzatura. Allora ho detto, non è che ci sono arrivati molti, giovani, non sono ancora arrivati. Ti siedi qua e aspetti un attimo. Io dico, sì, tranquillo, mi sono seduto allora. E mentre stavo aspettando i molti, a un certo punto si è arrivato un ragazzo, ehi, va lì. Angelino, scusa. L'ho preso un po' larga. Angelino, mi hanno preso. Mi hanno assunto. Questo significa che non verrò più a lavorare qui. La vita è fatta a tiratura, oggi a te e domani oro. Vai, vai, vai, vai a vedere il mondo con gli occhi tuoi. Quello che aveva detto, credetemi, è intraducibile. Ma non di brutto auspicio, così ho il giorno dopo cominciai, mi armai di un decametro, l'ammiro, il modo di compilare, il sorriso più smagliante che potessi immaginare, e cominciai da via Principe di Napoli per fare il censimento per la spazzatura. Prima casa. Ding dong! Scusi, sa, sono del comune, sto facendo il censimento per pagare la spazzatura. Ma c'è censimento, visto cazzo, ma paghiamo proprio la munnese, veramente già un po' che paga per la spazzatura. Cacci chi ben muerto, ma da tutte parti. Ma quando c'era Vittorio Emanuele, non era così. Il re d'Italia, era uno che faceva bacia la capa, tante creme, insomma, era il generale Minguzzo Scorcia Scorci, statuario, con dietro di sé una gigantografia originale del re d'Italia. Ci fu mica verso d'entrare. Per cui io mi dovetti armare tutta la mia buona pazienza e passare alla casa successiva. Permesso, Permesso, C'era una scala fitta, ripida, buia. cima a quella scala una donna vestita con degli stracci che mi guardava dritto in fondo agli occhi mentre salivo e l'angoscia mi saliva. E questa donna con un fazzoletto sulla testa, illuminata solo da luci di candela, mentre saliva l'angoscia mi saliva. Con dietro di sé un altarino con tutti gli ex voto, Gesù col cuore in mano e questa donna che mi guardava dritto in fondo al cuore mentre saliva. E quando arrivo vicino a lei, lei mi prende per omaggio e... La materia scompare e solo lo spirito resta. Potrò scordare, ma io ogni cosa si sperdicola, antraulece, anche la voglia. Devi pregare la regina dei nostri cuori e il nostro Signore Gesù, che quando venne lo tempo che fideli cullali scampagnati a Pariglia verranno gli angeli del Signore and they guardano prima faccia e poi in telewake e a quinto capirito, finito, dietro pezzo, finito, rimasto la capo e da pregare che la materia scompare e solo lo spirito resa dove la mia vela traiarara la rosina passatore, la bizzoca del paese che era tutte le funzioni religiose, ignorante come era a suonare l'organo con tutta la forza che aveva. Io mi chiedevo perché, perché. E intanto correvo a casa mia e quando aprì la porta di casa vidi mio nonno. Nonno, che cazzo stava lì? Aspetta un attimo, nonno, se non si capisce il passaggio drammaturgico, mettiti qua. Allora, mio nonno era diabetico. Perché se non si capisce, ma diabetico duro, era uno proprio. Vabbè, la dico, mio nonno era alto, cioè proprio. Era uno bello, insomma, in vita era stato anche ricco. Cioè, mi si... Poi aveva perso tutto, vizi, donne, gioco. Era uno così che era abituato a essere servito, riverito, cioè, no, era, come dire, era uno di quelle persone eccezionali, uno di quelle che sanno farti divertire come un bambino. Mi ricordo, mi faceva divertire tantissimo, che però poi diventano terribili per delle sciocchezze. Lui aveva 5 figli ed una moglie che lo servivano e riverivano. Allora, per esempio, io so, me l'hanno raccontato, che una volta aveva buttato all'aria l'intera tavolata perché la sua pasta era tiepida. Un'altra volta aveva buttato mia zia neonata nel fuoco perché piangeva. Era uno così, che quando chiamava le sue figlie Santina, Maria, Clelia, bisognava schizzare davanti, mettersi sulla tenda e dire comandi papà. Era uno così, che aveva un domicilio a rate, nel senso che faceva regolarmente da un letto ad un altro, però sempre attento che a casa sua non si sapesse niente, ma altra generazione, no? Era uno che anche a 70 anni voleva essere servito e riverito. Solo che ormai il tono autoritario non funzionava più, per cui si inventava altri metodi. Uno che funzionava tantissimo era quello di insinuare nella quiete del calore familiare il soffio della morte. Oi, oi, oi, che dolore. Santina, Santina, portami il piatto qua, per favore. Alza, te lo prendi il piatto. Mamma, sei tu buono, mamma, sto male. Santina, dammi una banana. Non ne puoi mangiare, papà. E dai, dammi una... Sei diabetico, papà, come te lo dico? Insomma, questo era mio nonno, che per portarlo dalla poltrona a letto bisognava sostenerlo perché diceva a lui che da solo non ce la faceva. Poi quel giorno torno a casa e lo trovo in piedi, con una banana in mano, la brioche in bocca, il caffè nella tazzina. Ma che gli dici tu a tuo nonno? Che gli dici, no? Che gli dici tu a tuo, che ha 5 volte la tua età, padre di tua madre, colui che ha permesso in primis che tu esista. E infatti anch'io, nel rispetto della discendenza, gli dissi a mio nonno, nonno, ma che cazzo sta facendo? Non seppe rispondere perché ce l'aveva a bocca piena. Così io gli spiegai che se lui voleva qualcosa, io non gli avrei detto di no. In questo modo tenevo sotto controllo tutto quello che mangiava. Così appena i miei andavano via. Oh, ci fai niente, lo ciò mai! Che c'è, nonno? Era una brioscia. Mi chiamo Oscar. Che gli ho detto io oltre? Vabbè, fa lo stesso. Sta facendo i compiti? Sì, sto studiando. E non gli nei cuori? C'è la televisione accesa, nonno. E te l'abbasso? Lo stesso, si infila. E te la spingo? E poi ti metti a parlare con me, che è la stessa cosa. Dai, nonno, lascia perdere. No, no, no. No, non mi stavo città d'angolino. Dai, nonno, ogni giorno sta storia mi fa. La spengo. Domani c'ho un compito in classe, poi. Dai, lascia perdere, la spengo. Ti fissi proprio, ti fissi, Devo studiare. No, no, no, quest'anno non sta andando benissimo. Tu stai guardando Sergio Leone. Guarda che bello sto film, Che io l'ho visto, se no venivo di qua, figura della spengo. Cosa significa la spengo, no, dai. E poi invece l'ho capito cosa significava la spengo. È un'altra generazione, un altro modo di chiamare le cose. La spengo significava vieni di qua, per favore. Lui 70 anni e io 15. Lui un uomo vissuto, io ancora da vivere. Io studente. E lui sempre è stato un lavoratore. E anche un po' un malfattore. Ed io ancora un bravo ragazzo, ma tutti e due con un solo bisogno. Semplicemente umano. Lui non voleva stare da solo. Ed in questa vita, nemmeno io. Interrogazione per quelli che sono arrivati dopo. Che gesto è questo? Dai, suggerite. Ogni foto. Quando seppi che un certo Giovanni Marinosci era stato a Londra, uno di Erchie che era uscito da Erchie, era arrivato fino a Londra, io non ci posso credere. Cioè, questa cosa è paragonabile alla scoperta dell'America, praticamente. Dico, io con uno che è andato fino a Londra, che è uscito da Erchie, è arrivato fino a Londra, io ci vado a parlare, perché lui saprà sicuramente come cambiare la monotonia del giorno. E infatti andai a parlarci. Cioè, quando arrivai, dissi, Giovanni, ma tu, Giovanni, mi guardo negli occhi e mi fece, Giovanni, non ho capito, change, ma che cazzo sta a dire? Cambia, voi ragazzi siete tutti uguali, vestite nello stesso modo, fate le stesse cose, cambia aspetto, mostrati diverso e tutti ti tratteranno da diverso. Geniale. Ma qual era Erchie la possibilità, l'alternativa, il paragone? I vestiti di mio padre. Non sapevo cosa fare, cosa dire. Poi un giorno, signori, poi dicono che la televisione non serve. Pantacolla ad ape maglia, anfibi militari verniciati di rosso, una bella canottiera leopardata e la cresta verde. E indovinate dove andai a farmi la cresta? E per i pochi che sono arrivati dopo, che non conoscono il dialetto erchiolano, significa: non sei mica un gallo, e tra l'altro non è che tutte le mattine libererai il tuo aereo canto violetto per l'alba, ma soprattutto devastandomi in modo indefinito le parti basse e delicate, nonché atte alla procreazione e piaceri del re del mio... ascolta, Angelino, non fare il capone, eh? Il cliente sono io, il cliente ha sempre ragione, e questa mia ragione di rompere questa maledetta fotocopiatrice, dice, fammi la cresta, vedi, vaglia! Bello bello, tu hai capito l'ampione mio coglione. Andiamo capiti proprio, perché tu ti puoi fare quei tuoi away. Fino a dormire il pezzo non si può vedere. Non hai capito pressione a me. Visti polpe fritti, tali padelli, il cascere. Che te ne fanno tu, ne fanno i giorni, vedo mia. Siete qua e infugamo la posta. Che come cucuzza canta, quando pasca. Vedi niente. Che per i pochi che non conoscono il dialetto erchiolano, se qui c'è un problema, sei tu ad averlo, punto. E poi la frase è immancabile. Oh, scaparibarala! Ma il vero problema si presentò dopo, cioè quando dovetti tornare a casa. Mi affacciai dal negozio di Angelino Sclerotico d'Erchie, provincia di Brindisi, città medioevale, comune d'Europa, benvenuto, arrivederci, che si trovò davanti a un evento spettacolare senza precedenti. Calma, piatta, mezzogiorno di fuoco. Lo sguardo cade sulla linea dell'orizzonte. E lì, una 1 turbo, 16 valvole, doppia iniezione elettronica, intercooler, interfono, interista, cerchi in lega, alettone, volante in pelliccia, coda della volpe attaccata allo specchietto, tendine di Marilyn Monroe a faccia. Si avvicina. Si ferma. Abbassa il finestrino. Abbassa lo stereo. E mi fa la domanda. Gli do la risposta. Boom! E sgomma terrorizzato per le vie del paese, ma questo è un orario di punta, per quell'orizzonte altro veicolo si affaccia. Appestati signori, abbiamo i materassi ortopedici, i materassi nuovi e decore. Madonna, ma quanto è brutto quello, ma che? Ma sanguosca, Oscar, ma come ti sei combinato? Dove devi andare a Rio de Janeiro? Stai zitto, cosa di urli che mo si affacciano tutti. E infatti proprio in quel momento veniva fuori dal bar, corri con curare, che per vite invece, ehi! Sento, ma hai cambiato vino? E vedo che stiamo qua direttamente. Così che tutti i clienti del bar improvvisamente si riversarono per la strada. E io mi ritrovai in una marea di sguardi. Tutti che guardavano me. Ma continuai ad andare dritto per la mia strada, senza avere paura, signori. Senza aver paura, dritto. All'obiettivo, dritto. Senza aver paura, come un guerriero della notte. Anzi, come The Warriors. Vuoi sapere cosa penso di te? Su, avanti, dimmelo. Non mi piace il tuo modo di vivere. Che cazzo te ne frega? E dovetti anche passare davanti a 50 uomini opulenti, con 50 ventrazze fatiscenti, 50 sigarette in bocca e 50 spottine bianche in mano, con dentro 50 paninazzi che aspettavano l'autobus per andare a lavorare alla Montedison di Brindisi City e che quando mi videro dissero all'unisono: pietà! Erano situazioni imbarazzanti, credetemi, contando anche tutte quelle creature antiche che vivevano nella via principale e che erano state svegliate dal secolare letargo grazie al venditore ambulante. Ma io niente, signori, continuavo ad andare dritto per la mia strada senza avere paura, come un guerriero della notte, come The Warriors, quando sei il capo della più grande gang della città, puoi cagare in testa a chi vuoi tu. Dai, è la novità che fa paura, eh? Il cambiamento terrorizza tutti, eh? Tutti. Quando cambiano le cose, Eh sì, perché si rompono gli equilibri, i giochi di potere, no? Ed è sempre in questi casi che i più vigliacchi si mettono nella posizione di difesa tramite l'attacco. E il primo grido si levò alto al cielo: guerriero! Giochiamo a fare la guerra! Guerriero! Ma io niente, signori, guerriero della notte, davvero, The Warriors, continuavo ad andare dritto per la mia strada senza avere paura, credetemi sulla paura, sulla fiducia, eh? Senza avere paura! Tu fai parte solo di quello che mi è successo stanotte ed è tutta merda. Intanto dietro di me si era formata una piccola folla che mi diceva: ma che cazzo è qui? Non lo so, secondo me è Ricchione. E prima che il gallo avesse cantato, i miei tre amici, Pompeo Passatore, Mimmo Drone e Luigi Scroccone, mi avevano rinnegato dicendo di non conoscermi. Mentre la Vanessa con sua madre, che aveva detto: ma è un mio amico, si era presa una bella smerzantrale musica con la perdita dei due incisivi. Ma io niente, signori, guerriero della notte, dei Warriors, continuavo ad andare dritto per la mia strada senza avere paura, signori, credetemi sulla fiducia, senza avere, anzi, per farmi coraggio mi cantavo nella testa Anarchy in UK, The Sexy Pistols, mentre la Rosina Passatore in contrappunto da sopra il balcone: tu sei la mia vita, e dietro di me c'era Angelino Scalerotti e tutti i suoi affezionati, Cricori, Cucunare, tutti i clienti del bar, gli esseri antichi svegliati dal secolare con le 50 ventrazze uguali, con 50 sigarette in bocca, 50, che continuavano a dire all'unisono: pietà, pietà, pietà, i miei tre amici che facevano finta di niente, la Vanessa, ma lo conosco, rinnegalo, ma lo conosco, fortunato, macchine e personaggi che si erano trovati a passare là e avevano trovato la strada intasata grazie all'aiuto previdenziale del vigile Gecchi, di Poldino, il vigile Corpanino e Cicillo, il conte vigile. Signori, si è messi cortesemente solo dalla posta, ma vaffanculo, tutta questa gente minacciosa mi inseguiva, ero l'agnello sacrificale, ma credetemi sulla parola, non avevo paura. Stavo cagando sotto. Ma cosa gli dice una folla inferocita? Non sapevo cosa dire, cosa fare. Ma proprio in quel momento, signori, Deus ex machina, suona la campanella della scuola elementare. Una marea di bambini in onda alla strada, poi il silenzio. Questo silenzio, una bambina alta così, con due occhioni verdi che continuavano a sbattere. I riccioli biondi, un piccolo angelo venuto dal cielo a salvarmi. Passano capelli. E posso toccarli. Ma certo, piccola mia, così cominciò a toccarmi i capelli e con lei tutti i bambini che erano incuriositi da questa novità. E in questo modo mi scortarono rumorosamente e clamorosamente fino a casa. E quando entrai a casa stavano già mangiando. Si fermò il tempo. Non volava una mosca, anzi una. Tutto era ovattato, rallentato. Si sentiva solo il battito del cuore di mio padre. Volò il tavolo per aria, era un gesto di rabbia, tramandato transgenericamente, la suocera va a genere, la mosca terrorizzata andò a sbattere con 3 metri dalla finestra. Mio fratello dovette tirare fuori tutte le sue capacità sguscianti per evitare piatti che davano all'arredamento delle sfumature, pomodori, bicchieri, cioc, cioc, cioc, cioc, poi le posate, ding, ding, ding, un clavicembalo ben temperato di Bach, poi partì il tifone, mamma santina, disgrazia, gente come. Mio nonno, che nel frattempo era riuscito a rubare una banana, è fatto bueno, sono perché, lasciate sto bagnare! Insomma, 2 ore dopo il tifone si calmò ma non si arrese. E 2 ore dopo eravamo finalmente riusciti a trovare una mediazione democratica. La democrazia. Quando mai nella storia dell'umanità un figlio aveva potuto dire al suo padre come la pensava? Dai, Dai, è la prima volta nella storia dell'umanità, a parte qualche raro caso. Diciamo. E infatti io in questa situazione, credetemi sulla parola, davvero, io potei dire la mia e la dissi più e più volte la dissi, finché mio padre non disse la sua. Una volta sola qui comando io, quindi tu fai quello che dico io. Io dico quella bufala che cosa hai? Scappi immediatamente! La bocca sollevò dal fieropasto quel peccatore, forbendola i capelli del capo. Che gli aveva di retro guasto. Vai dura terra, perché non t'apristi? Poscia, più che il dolore, poté il digiuno. Così che la fame, verso sera, mi apostrofo. Ma non sarai mica uno di quelli che vogliono cambiare il mondo, eh? La posso toccare? Ma papangu. No, il mondo no, il mondo no, però la mia vita sì. Cioè, io mi svegliavo la mattina e cercavo di capire come cambiare la monotonia dei giorni sempre uguali. E questo che sto raccontando dall'inizio, da quando ho cominciato, no? Per cui cominciai con tutti i miei. Ah, ma io non vi ho ancora presentato i miei amici. Ve li presento subito. La fame, che da qui siamo a vostra foto. Andiamo a fare spaghettini, eh. Mimmo Trono, al secolo scugnizzo, per via del fatto che faceva il pescivendolo. Era un tipo alto, magro, con due vasettoni lunghi, capelli lunghi, un po' di occhiaie, bianchissimi, insomma, quando uscivamo con lui, perfino le guardie giurate, giovani, documenti, dai. Poi c'era Pompeo Passatore, il bello del bruco. Biondo, occhi celesti, 164 denti di sorriso. Quando entrava in una festa, 20 minuti dopo usciva con donna annessa e sottomessa, senza il del mare, niente. Il vero del primo. Poi c'era Luigi Scroccone, il filosofo. Luigi Scroccone, il filosofo, il cui esorbitante vocabolario si era irrimediabilmente ridotto a tre regole di vita fondamentali. La prima, c'è una sigaretta. La seconda, c'è qualche spicciolino. La terza, non te ne vai a casa, ma da un passaggio. E poi c'era lei, signori, la donna del gruppo, il non plus ultra della stupidaggine, della vacua affabulazione, il niente! Per la maggior parte del tempo, la mutua nei momenti di carestia. Benché la trattassimo sistematicamente male, le volevamo bene. E lei era sempre disposta a darci tutto quello che volevamo. La mutua, perfino per Pompeo. Lei era l'incredibile Vanessa. Ciao. Che bello sto posto. Io mi chiamo Vanessa, no? E tu come ti chiami? Ah, ma state insieme? No, ma non te lo volevo fregare. No, e fa due chiacchiere. No, perché mi hanno detto che voi scavalcate Siamo noi. Ah, non sei. E che lavoro fate? Io sono un contadino. Beh, no, perché a me piacerebbe fare l'artista invece. Non fanno un cazzo. No, ma non è per questo, è che mi affascina tanto tanto l'idea che, no, che quando c'è il cuore gonfio, gonfio, di emozioni che non sai come fare, no? A dirla. Beh, fai un quadro, una canzone, no? E poi ti pagano. Senza lavoro, no? Senza. Adesso io ancora non. Mi piacerebbe andare all'arte drammatica, all'Accademia di Arte Drammatica, però ancora no, sono troppo piccolina, allora. Però a casa provo, faccio delle cose. Magari volete vi canto una canzoncina. Posso? Mi concentro. Gocce di Napoleon Sky. Il gatto mi guarda e mi fa un sorriso. Gocce sul mio corpo pensa a te. Mi innamoro di te. Ecco, questi miei compagni di viaggio, che creste in testa, tranne me, cominciarono con me tutta una lunga serie di cazzate di fresco dell'immagine. Cominciamo con rubare la frutta nei giardini privati, mele, pere, arance, mandorle. Poi passammo dalla frutta alla verdura fino ai generi alimentari, tutti. Poi, dopo una riunione, decidemmo di cambiare settore di investimento e ci dedicammo ai mezzi di locomozione. Biciclette. motorini, e faccio la miscela. Le macchine, signore. Eh sì. Andavamo a Brindisi City, salivamo su questo autobus che andava a Brindisi City, dove 50 ventrazzi uguali con 50 sigarette in bocca, eccetera, eccetera, dicevano all'unisono appena ci vedevano salire sull'autobus: sangue di questa terra. Arrivati a Brindisi, discendevamo. Sceglievamo uno di quei macchinoni da sogno che non avremmo mai potuto avere nella vita. Fiat Croma? Un lanciateva. Maserati. Lo rubavamo. Con lo sparino aprivamo, mettevamo in moto con i cavi così e poi schizzavamo per la secondaria, il rischio e pericolo nostro di chi suo malgrado ci incontrava lungo la strada. Adesso, all'entrata di Erche stavano costruendo una superstrada. All'entrata di Erche stavano costruendo una superstrada. Ma all'entrata di Erche c'è da sempre l'inizio di una superstrada e i ponti non erano finiti, erano delle vere e proprie rampe di lancio, così ognuno si acchiappava dove poteva, o con la cintura di scosa, con il cruscotto, dietro le sedine, wow, ci sentivamo vivi, l'adrenalina ci scorreva nel sangue. Quando è l'ultima volta che vi siete sentiti vivi? Così poi aspettavamo che rimuovessero la macchina e rifacevamo il giro, andavamo a Brindisi, rubavamo un macchinone, facevamo per la secondaria e facevamo il volo. Brindisi, macchinone, secondaria, volo. Brindisi, macchinone, secondaria, volo. Brindisi, wow, signori. C'era una volta, in un piccolo paese dell'entroterra salentino, quattro ragazzi che avevano deciso di cambiare la monotonia dei giorni sempre uguali. Ma non tutte le ciambelle escono col buco. Non eravamo mica gli unici, ciao. Mica i più intelligenti, poi, figuriamoci. Solo che ognuno ha il proprio modo di organizzarsi, no? I giochi... Così che tutti quelli che sulla carta non svolgevano attività di sorta avevano deciso di fondare un'associazione mistica a conduzione familiare. Cioè, nel senso che era la famiglia che conduceva, vabbè, associazione mistica, insomma la Sacra Corona Unita, ecco. E la Sacra Corona Unita, diciamo, aveva deciso di cambiare un po' le regole. Ecco. Così quel pomeriggio ci ritrovammo sul ponte due tizi con facce dure, espressione unica di un odio assoluto, Purpittoni e Sandokan, che ci consigliarono di fermarci. Io non so come si chiamasse, no? Questi arrivavano davanti al chiosco d'Anzetto, lasciavano la macchina in moto, centro della strada, uscivano e offrivano da bere a tutto il bar. E nessuno mai si era rifiutato di bere, non si poteva, non si poteva. Sinceramente non si poteva. Insomma, quel pomeriggio ci ritrovavamo sul ponte che ci consigliarono così velatamente di fermarci. Solo che quando uno ti obbliga a fare una cosa, no? Tu che fai? Anche noi. Io mi hanno mai visto sopra Ponti che ci ho fatto segno di fermare. Come scusa? Come scusa? Sta facendo il simpatico, ragazzi. Come piace ripetere le cose. Diciamo che d'ora in poi o rubate per noi o non rubate più, chiaro? Non rubiamo. E Pompeo si mise a ridere. Incredibilmente Pompeo si mise a ridere con una di quelle risate invitanti, ammaglianti, fragolose, una di quelle risate che non puoi fare a meno di ridere anche tu, finché a un certo punto c'è mi sta ridendo. No, ridi morto. Ah, non ridi più? E com'è che non ridi più, eh? Non mi piace ripetere le cose. D'ora in poi o rubate per noi o non rubate più, è chiaro? Ma Pompeo non capiva, oh. Non capiva oppure non voleva capire. L'unica cosa che riuscì a fare con una pistola puntata sulla testa fu... Pompeo, guardami, Pompeo! Pompeo, Pompeo! Pompeo, tienimi stretta la mano, tienimi stretta la mano, Pompeo! Avanti, su, Pompeo! Tienimi stretta la mano, qua! Non chiudere gli occhi, non chiamare quella cazzo di ambulanza, per favore! Non chiudere gli occhi, Pompeo! Non li chiudere, cazzo, è finita! Si chiude gli occhi, è finita, avanti! Chiama quella cazzo di ambulanza, fai presto! Avanti, avanti, proprio. Stringimi la mano. Ascolta, ascolta la mia voce, ascoltami la voce. Ti ricordi, ce ne dobbiamo andare a Bologna, eh? Ti ricordi? Non chiudere. Ascoltami, ascolta la mia voce! Ascolta la mia voce. Ti ricordi, ce ne andiamo a Bologna. Bologna è pieno di banca bestia, eh? Dai, ci scriviamo al Dams a Bologna, poi da lì ce ne andiamo fino a Londra, poi non lo so. Ce ne possiamo andare a New York, per favore. Non chiudere gli occhi, non li chiudere. Chiamate quella cazzo d'ambulanza, per favore. E così arriviamo alla sera che vi stavo raccontando. Vennero i miei amici a prendermi e chiesero a Jackie dove era casa mia. Chi tu siete? Cosa mangrazio domandò? Siamo venuti a cercare un nostro amico, si chiama Oscar De Summa, abita in via Giotto, accanto alla scuola elementare, di fronte alla guardia medica. Ce ne stiamo andando. È pittoresco il sud, tutto il sud del mondo. Ma questo non significa che le tragedie non succedano mai.